ridammi la lapa. E falla durare perché non ce n'è più. Ti ho fatto una domanda. Ah! Mi hai già risposto? Com'è la parola? Ho una carota. Tanto meglio. Tanto meglio. Cosa volevi sapere? Ho dimenticato. Ma questo che mi fa rabbia. Non dimenticherò mai questa carota eppure. Aspetta. Allora? Non siamo legati. No, non ho capito una parola. Ti ho chiesto se siamo legati. Legati? Legati. Come? Mani e piedi. Ma a chi? Da chi? Al tuo grand'uomo. Legati a Totò. Legati a Totò. Neanche a pensarlo. Per il momento. Si chiama Totò. Credo. Ma vedi che è strano. Più si va avanti, più fa schifo. Per me è il contrario. Guarda. Io mi abituo allo schifo man mano che vado avanti. Sarebbe questo il contrario. È una questione di temperamento. Di carattere. Non possiamo farci niente. Hai voglia di agitarti. No, siamo quelli che siamo. Hai voglia di menarti. A fondo non cambia. Per niente. Vuoi finirla tu? Più spalda! Avanti, forza! Più spalda! Rispetto! Avanti! Rispetto! Rispetto! Avanti! Avanti! Porco! Più spetto! Ah! Ah! Ah! Ah! Indietro! Attenzione! È cattivo! Con gli estranei. Appunto. Mi presento! Ma no, scusi lei, signor Godò! Io sono... Questo nome non mi dice niente. Vi ho chiesto se questo nome non vi dice niente. Bozzo! Gozzo! Pozzo! Pozzo! Ma Pozzo! Ho detto Pozzo Gozzo, mi lasci pensare. Non mi ricordo! Io conosco una famiglia Gozzo, la madre del Gozzo! Lo sento di qui! Ma siete pur sempre degli esseri umani? A quel che vedo... della mia stessa specie. Della stessa specie di Pozzo! No. Ma che immagine e somiglianza di Dio! Veramente? E chi è Godò? Godò! Mi avete preso per Godò? No, signore, neanche per un momento. E chi è? È una specie di conoscente. No, cosa dici? Noi lo conosciamo appena. Ah no, non lo conosciamo affatto! Io se lo incontrassi per strada non lo riconoscerei. Mi avete preso per lui? No, signore, no. Vede che la franchezza, la debolezza, l'oscurità... L'attesa. Io ho creduto per un momento! No, ma non lo aspetto di dire! L'attesa! Quindi lo aspettavate! Adesso. Qui! Sulle mie terre! Non pensavamo di far male, l'intenzione era buona. La strada di tutti! E questo ci diceva! Che mi vergogno, ma è così! Non hai colpa, no! Non parliamone più. In piedi! Il nome cade e si addormenta. In piedi, carogna! Indietro! Voltati! Cari amici, sono felice di averli incontrati. Sì, sinceramente felice. Più lontano! Halt! Capirete, la strada è lunga quando si cammina per 6 ore. 6 ore filate senza incontrare anima viva. Cappotto! Tieni questa! Che hai fatto? C'è un filo di frescura nell'aria stasera. Frusta! Vi dirò, amici miei, che non posso fare a meno per molto tempo della compagnia dei miei simili. Anche quando mi rassomigliano imperfettamente. Seggiolino! Più vicino!

a concludere questi mesi di una grande offerta teatrale, di teatro, di danza, di performance, anche dedicata ai più piccoli. Questo è stato il weekend, uno dei due weekend conclusivi di Ref Kids, ovvero sia la rassegna di spettacoli dedicati agli spettatori più giovani. E andiamo adesso, insomma, a vedere un po' come concluderà questa settimana. Ma prima andiamo a vedere un po' che c'è in giro per altri teatri. Principalmente io partirei, come nostro consueto, quando è possibile, dal nostro teatro Tor Bella Monaca, perché tornano a Roma i Kille della Balanza, questo gruppo storico fondato nel 1973, un gruppo storico del teatro di ricerca, nato a Napoli ma poi stabilitosi a Firenze nell'ex manicomio di San Salvi dal 1998, e arrivano a Roma con un progetto dedicato a Franco Basaglia, Manicomio Addio contro tutti i muri, dal 2015, no, è difficile adesso qua, però no, da giovedì 14, è sbagliato il comunicato, fino a domenica 17 saranno appunto in scena, il tutto è introdotto da un incontro appunto dedicato ai manicomi, dedicato alla grande esperienza di Franco Basaglia, al superamento dei manicomi, non ancora ad avviso degli artisti del tutto compiuto, per certi versi, insomma, potremmo dirlo in questo modo. Quindi, dedicato a Franco Basaglia, quindi, questo progetto Manicomio Addio contro tutti i muri, dal 14 al 17 novembre al Teatro Tor Bella Monaca. Procediamo, perché in un posto dove non si va, non andiamo mai, in zona Portuense, il Caos Teatro, questa settimana, da giovedì al sabato, ecco precisamente, non va in scena questo Colpo di Stato, uno spettacolo diretto da Emanuele Cicconi, con lo stesso Cicconi, Valerio Palozza, Salvatore Cuomo, dedicato agli anni di piombo, per rivivere un po' i retroscena scuri che hanno segnato la storia italiana degli anni 70 e forse anche del nostro tempo attuale. Si parlerà del golpe borghese, di un'inchiesta censurata allora e mai del tutto chiarita. Quindi 14-16 novembre, Colpo di Stato a Caos Teatro. Procediamo ancora, perché nello Spazio Diamante, questo weekend, venerdì, da venerdì a domenica, va in scena, non per la prima volta a quanto ricordo, questo Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione. Frivola, scritto con due E, è lo spettacolo di Lucia Raffaella Mariani, un monologo, ma la consulenza, la regia, la drammaturgia è quella di Lorenzo Maragoni. Essere donna, ci dice, è come essere due dentro un corpo, quella che esiste e quella che si guarda esistere, la sorvegliante e la sorvegliamo, il soggetto e l'oggetto di me stessa. Bisogna piacere a tutti, soprattutto ai maschi, per quei soldi, bisogna essere ammirata, piacevole, piacente, bisogna piacere. Ecco, tutte queste voci un po' retoriche, un po' proprio no, ma realissime, e tutte ruotano attorno al corpo femminile, e Frivola è lo spettacolo che se ne occuperà dal 15 al 17 di novembre allo Spazio Diamante. Continuiamo ancora, perché al Teatro Vittoria, con la regia di Stefano Messina e Chiara Bonome, torna 900 di Alessandro Baricco, dal 13 al 17 di novembre. In scena c'è Stefano Messina, chiaramente si tratta di un monologo, come ben sappiamo, dalla grande interpretazione che ne ha dato Eugenio Allegri, per cui il testo è stato scritto, la regia di Gabriele Vacis, poi adesso, insomma, il nuovo spettacolo prende la voce e l'interpretazione di vari attori. Quindi al Teatro Vittoria, Stefano Messina con 900 di Alessandro Baricco, la storia del più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano, ovvero Danny Goodman, T.D. Lemon, 900, appunto, come il titolo del libro e quindi dello spettacolo. Poi al Teatro Lo Spazio andiamo con la regia di Ariele Vincenti, in scena Fabio Avaro e lo spettacolo Storie Bastarde, il testo ispirato al libro omonimo di Davide Desario. Siamo ad Ostia, dopo la morte di Pasolini, un adolescente diventa subito adulto attraverso esperienze di strada, di vita privata e di vita di gruppo, in uno spaccato sociale che è l'estrema periferia di Roma dagli anni 70 fino agli anni 90. Quindi, ecco, il viaggio lungo il tempo, 20 anni, dagli ultimi anni di Pasolini fino poi agli anni 90 per capire un po' come la periferia romana si è trasformata e in quale direzione. 13-17 novembre, Teatro Lo Spazio, per questo Storie Bastarde. Teatro della Monaca, ho dimenticato di dire che il 16-17 novembre ci sarà anche un altro spettacolo, ovvero sia Mi dimetto da uomo, la regia di Sergio Assisi. Siamo in un mondo che ha perso ogni punto di riferimento e Sergio è spaesato, parla con il pubblico a cuore aperto e ci lancia alla ricerca di risposte di cui ognuno di noi avrebbe bisogno, riflette sul senso della vita, sulle le abitudini, le speranze, i sogni, le miserie dell'umanità di oggi, e arriva una domanda cardine: dovrei forse dimettermi dall'essere un uomo? E questo è quello che appunto la domanda un po' pazza che sta dietro questo spettacolo, Mi dimetto da uomo, 16-17 novembre al Teatro Tor Bella Monaca. Questa settimana andiamo anche all'Off of Theater con Brotti e Non ridere che sei come loro, Manuela Zero e Davide Santi in scena con questo lavoro, in scena in realtà, ma poi sul palco la recitazione credo sia soltanto di Manuela Zero, e Davide Santi sarà regista e si dedicherà alla musica live, alla chitarra insieme al violino di Cecilia Drago. 8 storie di 8 personaggi unici in una penisola sorrentina fuori dal tempo, ognuno con la propria fragilità, con la propria forza. Brotti è una parola che fonde insieme brutti e rotti, e i brotti sono gli spezzati, gli isolati nel cerchio del loro dolore, che raccontano i temi del loro essere emarginati, l'amore tossico, la solitudine, il pregiudizio, la violenza. Questo al Off of Theater dal 15 al 17 di novembre. Mentre invece, allora, al Teatro del Lido il 12 novembre andiamo a vedere questa Santa Barbara California, e questo incontro che unisce letture, performance, radiodramma con Daria De Floriano, Riccardo Pazzi e Claudia Sorace, un progetto firmato da Pazzi e Sorace al secolo Muta Imago, quindi al Teatro del Lido di Ostia, una serata molto molto intrigante. Segnalo un grande ritorno, peraltro, 14-16 novembre, questo può essere che ce l'abbiamo anche in archivio vecchio, Lettera al padre da Franz Kafka, con l'interpretazione e la regia di Gabriele Linari, che per festeggiare i 100 anni dalla morte dell'autore praghese, non mai credo che bisogna festeggiare i 100 anni dalla morte di qualcuno, come se insomma fossimo contenti del fatto che uno è morto 100 anni prima, festeggiamo la nascita, festeggiamo... No, l'anno in cui ho scritto un determinato libro, ma la morte mi sembra un po' eccessivo. Torna in scena con da voce e corpo a questo scritto molto personale, una confessione accurata al genitore autoritario e arrogante. Questo spettacolo l'ho visto tanto tempo fa, me lo ricordo come con grande piacere, una lettera scritta nel 1919, è molto molto attuale. C'è da dire che Hermann Kafka non ricevette mai la lettera di suo figlio, però l'abbiamo ricevuta tutti quanti noi, per fortuna. E poi procediamo, perché al teatro, chi è questo? India, 14-17 novembre, va in scena Caini, la regia della drammaturgia di Mario Donati, scena Alice Conti, tra gli altri Alessandro Gioia, Giulia Pica, la compagnia teatrale che si chiama I Pesci, è una riflessione tra nonsense e ironia sui grandi temi della vita, ricordi di famiglia, morte e l'arte. C'è un segreto di famiglia che si snoda tra verità e menzogna, tra colpa e pena, tra arte e convenzioni sociali. Si tratta delle ossessioni di un nucleo chiuso e esclusivo. Questo è quello che Mario De Masi ha inteso portare in scena con Caini dal 14 al 17 novembre al Teatro India. Ancora al Teatro Altrove, l'Altrove Teatro, studio precisamente, venerdì 15 novembre per un evento in data secca, un gran testo in realtà di Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che racconta il viaggio attraverso l'esistenza umana dei due protagonisti, Rosencrantz e Guildenstern, che si trovano a compiere loro malgrado in realtà, perché loro hanno pochi punti fermi rispetto al proprio passato, ai propri ricordi, e gli stessi nomi danno loro delle difficoltà. Chiaramente i due personaggi sono tratti dall'Hamlet shakespeariano, e lo andremo a vedere con la regia di Giuseppe Ligios, e liberamente appunto ispirato al testo omonimo del grande immenso Tom Stoppard, soltanto il 15 di novembre, questo venerdì. Va avanti anche trend questa settimana, 12-14 novembre, per MUM, precisamente MUM, di Morgan Lloyd Malcolm, la regia di Roberto Di Maio, in scena Tiziana Varista, Manuela Parodi e Elena Radonicic, che raccontano questo viaggio febbrile nella complessità della mente materna, senza censure, che mostra senza paura la complessità del delicato rapporto tra madre e figlio. 12-14 novembre, Teatro Belli, per la rassegna Trend. Alla Sala Umberto, Vorrei una voce, di Tindaro Granata, con le canzoni di Nina, di Nina Simone, sbaglio consonante. 12-14 novembre, appunto, alla Sala Umberto, questa dedica di Tindaro Granata, la grande, infinita cantante italiana. Dunque, mentre invece a Teatro Balladium, 16 novembre, prima nazionale per questo Anima Chamuscada, per una vita in più. Dopo il primo appuntamento di Audience Revolution 2024, il progetto del Teatro Palladium di questa stagione, insomma, questa produzione argentina in prima assoluta, che racconta l'immersione nell'universo poetico, narrativo, biografico della scrittrice peronista argentina Aurora Venturini. Questo è lo spettacolo che andremo a vedere in data secca il 16 novembre al Teatro Palladium. Poi ancora Sala Umberto con Antonio Catania, 15-17 novembre, con il suo Azzurro, firmato da Paola Ponti, che è tratto dal libro Azzurro, Stracci di vita, del grande giornalista compianto Curzio Maltese, e quindi andremo a vedere un po' i suoi pensieri e tutto ciò che riguarda la sua avventura nel giornalismo. Ultimi progetti di cui andiamo a parlare, primo tra tutti appunto la chiusura di Roma Europa Festival. Questo fine settimana ci saranno anche altri spettacoli di Ref Kids, quindi invito ad andare su romaeuropa.net per il programma completo di Ref Kids. Io segnalo invece i lavori che chiudono il programma invece del teatro della scena per adulti, anche se poi questa distinzione non ci piace, ma all'Auditorium Parco della Musica, per ben due date, oggi e domani, in prima nazionale ci sarà il gruppo Acrobatique de Tanger, Marussia Diaz Verbeke, con Fix Svegliati, ed è uno spettacolo appunto dedicato alla scena internazionale. Sono 15 artisti scelti durante un'importante audizione in Marocco, si radunano per fondere le loro capacità acrobatiche tra breakdance, taekwondo e freestyle. Fix è una gioia che perne ogni idea, un'immagine creata in scena, e questo è quello che andiamo a vedere, questa grande festa di colori e acrobazie appunto all'Auditorio Parco della Musica, 12 e 13 novembre. Ma noi andiamo avanti, perché durante il fine settimana andremo a vedere, oltre agli spettacoli del programma per ragazzi, questo lavoro firmato da Robin Orlin e la Garage Dance Ensemble, How in Salt Desert Is It Possible to Blossom? Questo è il titolo completo dello spettacolo. Anche qui è una coreografia di grandissimo effetto estetico, sto vedendo le foto, insomma, siamo nella regione del Capo Settentrionale, una regione sconosciuta del Sudafrica, ma anche ricchissima di cultura, dell'umorismo, di umanità, e porta i segni anche della sua storia di colonizzazione. Siamo a nord della città del Capo, e poco prima del confine con la Namibia, insomma, dove c'è la povertà e il deserto, in qualche modo raccontano questa zona meglio di qualunque altro elemento. E in questo modo, com'è possibile fiorire in un deserto di sale, ci dice appunto il titolo, ed è una domanda sull'idea di potere, di gerarchia sociale e di privilegio che Robin Orlin porta sulla scena del Auditorium Parco della Musica, 16 e 17 novembre. Ultimi appuntamenti, ancora Roma Europa Festival, l'ultimo spettacolo che resta un po', lo fa al Teatro Vascello, 12 da questa sera fino al 17 novembre, prima nazionale, Massimiliano Civica con Capitolo 2, testo di Neil Simon, che in qualche modo chiude una vicenda, che chiude una carriera poetica, diciamo, della una prima fase prima della morte della moglie, e ne apre una seconda. Appunto, Neil Simon scrive questo testo appena dopo la morte della moglie, mettendo in commedia una dolorosa esperienza personale. C'è George, scrittore di gialli che non riesce più a superare il dolore per la morte della moglie, Gianni, attrice di teatro che ha appena divorziato, si conoscono e Giorgio decide di sposare Gianni inaugurando così il secondo capitolo della sua vita, ma c'è molto molto altro sotto questo spettacolo. Teatro Vascello, 12-17 di novembre, Massimiliano Civica con capitolo 2. Ma un altro, l'ultimo degli appuntamenti di cui vorrei parlare si svolge al Teatro India, perché Bianco Fango da domani 13 novembre porta in scena fino al 17 Never Young, Dov'è Lolita? La regia di Francesca Macri, la drammaturgia insieme ad Andrea Trapani, con la stessa Macri, ci porta ad affondare nei nostri tempi per cercare di capire la giovane Lolita, in che cosa oggi emerge maggiormente, quindi uno squarcio sulla preadolescenza, sulle nuove generazioni che esigono un dialogo con il mondo degli adulti. Non sono più bambini, non sono ancora adulti. Questo futuro identifica una generazione troppo spesso inascoltata, che costruisce e abita il proprio presente in una fase esistenziale complessa e multiforme, appunto, la preadolescenza. Never Young è la seconda parte di questo dittico che appartiene a una costellazione poetica dedicata all'attualità, a partire dalla figura tema che è quella di Lolita. Dunque, ripeto, Never Young, Dov'è Lolita? 13-17 novembre, Teatro India per Bianco Fango. E questo è tutto. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.